Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Sì, sì. Cosa, abbiamo cominciato benissimo. Benissimo. Buonasera a tutte. Buonasera, buonasera, benvenute alla nostra 137esima trasmissione, la nostra, lo sapete, è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane, nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa, naturalmente dalle 17 in poi sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ci potete naturalmente anche ascoltare sul nostro sito internet, la pagina www.clrbp.it/laradio.htm, cliccando sull'icona in diretta. Dunque, qui in studio stasera siamo io e Annalisa, Rosina. Ciao. Naturalmente Annalisa. Annalisa, hai salutato? Sì, ho salutato. Non ho sentito bene. Ciao ragazze. Oh, dunque, Annalisa è un po' così stasera, un po'. Fiorellino. Un po' fiorellino, un molto po' stravolta. Un po' stravolta, viene direttamente dalla grande capitale, Milano. Vabbè. Allora, dunque, vi ricordiamo naturalmente che se volete parlare con noi potete telefonare allo 0649 1750, quindi direttamente in radio, oppure ci potete scrivere una mail al nostro indirizzo che è contatti. Contatti chiocciola clrbp, giusto? Ecco, punto it. Voi sapete che non sono tecnologica, non sono assolutamente internetizzata, e, oppure come già sapete potete mandarci un sms, però stasera per una serie di eventi che assolutamente non dipendono dalla nostra volontà, il numero è cambiato, perciò soltanto per questa sera potrete scriverci al 340 34 188 30. Ve lo ripeto, così magari ve lo segnate se avete voglia di scrivere, 340 34 188 30. Benissimo, intanto vi aspettiamo qui e non so se Annalisa, che si occupa naturalmente della parte tecnica, vuole mandare un po' di musica o dire un paio sì, di cose. Sì, io comincerei con un brano che è di Elisa, visto che sono stata a Venezia e l'ho vista in concerto. Che cosa terribile. Col mio amore grande, che saluto, allora. Che è a casa un po' arrabbiata, cioè, stasera. E vi mando in onda questo brano che si chiama Happiness is Home. Ah, pensavo, cioè, la felicità tu è a casa. Pensavo che avessi deciso di mandare almeno tu, che c'era stato anche richiesto. Invece, vabbè. Ah, sì, vedi. Non c'è problema. Va bene anche questo. Approfitto per salutare le amiche di Caserta, sperando che siano connesse su internet, del coming out di Caserta. Un bacio, ho preparato i brani che ci hanno chiesto, tra cui La differenza di Tosca, che andrà fra poco in onda. Per il momento, appunto, Happiness is Home. Niente, non parte. Abbiamo un piccolo problema tecnico. Ma non c'è problema. No, assolutamente. Allora vi mandiamo un altro brano. Vediamo se questo va. Rappresento Caserta, mi presento. Rappresento QM dal cemento. Tenga faccia tosta, che ha risposto, che tu metti a chi lo posta. Sta costa, copia, costa opposta. E perché sta, verso sempre stessa. A volta vista, quando si fessa, fanno i dossi spissa. E mo c'è sta chi si dice, chi pop, con pop a misca. Ta fisca, lei t'annanzo, non mi scansa. Si è passa, passa, manda lunga una tascianza. Ti scassa, si passa ancora con tante grasse e va a famizza. E mo confessa, che mi viene a pressa, ne fessa, rimane sempre stessa. Puro con vinte piercing e tatuaggio, con tante macchine po' passaggio. Ta già uccido, te tengo coraggio. A me t'attacca, e ti stacca, t'ammacca. Ti spoglio come l'almanacca, dacca. Prima smacca, po' pacca, ti spacca. Svuota e sacca, ticca e tracca, ti ficca niente pacca. Vega che c'è stata, ma va che sembra nanza. So io che guarda rete, so io che sto ingannanza. Vega come va che sembra nanza. Tu stai sempre rete, io sto sempre nanza. Vega che c'è stata, ma va che sembra nanza. So io che guarda rete, so io che sto ingannanza. Vega come va che sembra nanza. Tu stai sempre rete, io sto sempre nanza. Fai più fumo, lo drum, to studio, to ciumma. To faccio fuggire da mondo, da 79 giorni, roba che da giutum. Ta da pumazza, si mi fanno pochi spazi. Da su campo, fa rampa, su campo, fa vampa. Ma non scampa, per capo, to faccio sciamba che gamba. Mi resti zamba, con la mia sinoto concia. Te schiaccia, te sconci, capilla, po' faccia. Se ancora canto sketch, do coro, mi arancia una freccia. E confessa, quando mi offesa, do le prese. E mo so sorpresa, tanta attesa. Faccio sta s'aiuta, meglio la discesa. Pazza do paese, russe sangue per sera. Dimmi lutto, se spera. Gabe disciplina e cosce pu cammina. E in un metto fino a sta bocca pamuina, pamuina. Vega che c'è stata, ma va che sembra nanza. So io che guarda rete, so io che sto ingannanza. Vega come va che sembra nanza. Tu stai sempre rete, io sto sempre nanza. Vega che c'è stata, ma va che sembra nanza. So io che guarda rete, so io che sto ingannanza. Vega come va che sembra nanza. Tu stai sempre rete, io sto sempre nanza. E mo stongo solo cucchina lec. Chi mi è fatta da pie vecchie. Che naita, mi sporca si mi tocca. E quando io con coppe braccia si sorca, non fiocca, mi è asciugato l'occhio. Sulu cucchi c'era e mi è parato culo. Tiene tutte cose ma si sfrutta e che opportuna. Da guarda manca più un bacio. Perché sta femminuccia è diventata uno che schiaccia. Non fuggio saccia. Nesce ma chiuso con giuse. Senza che chiede scusa. Riesce l'illusa e mi sa via. Ma guarda solte kill. Sono diverse tra mille. Che i faxi che mi se spilla. E modilla te stongo proprio a nanza. Tu si oscatta si è roba che avanza. Sta lontana a me perché te metto sotto vuoto con manu che caffè. Vega che c'è stata, ma va che sembra nanza. So io che guarda rete, so io che sto ingannanza. Vega come va che sembra nanza. Tu stai sempre rete, io sto sempre nanza. Vega che c'è stata, ma va che sembra nanza. So io che guarda rete, so io che sto ingannanza. Vega come va che sembra nanza. Mi dispiace molto sfumare Juicy K, che è un artista appunto che viene da Caserta, proprio per salutare le amiche casertane del coming out. Il brano era Annanze, è un'artista lesbica. Io non so quante di voi abbiano capito le parole, visto che è napoletano e un rap, ma è molto carino, quindi ho pensato di mandarlo in onda, Rosina. Sì, non avrei mai immaginato Annanze, che tu vuol dire avanti, avanti. Non avrei mai immaginato che tu nascondessi un'anima da rappettara, come si dice, rappettara. E certo. Allora, si avvicina l'8 marzo e non vogliamo parlarvi di farvi il solito discorso di mimose, incendio nelle fabbriche e questioni politiche, anche perché la festa o la giornata della donna è diventata un po' de modè, visto che siamo in tutto e per tutto uguali agli uomini. No, giusto, sacrosante parole. Vedi la distribuzione di potere, la presenza in politica, il trattamento sul posto di lavoro, la commercializzazione dei corpi, eccetera, eccetera. Ma esiste ancora una differenza fondamentale fra uomini e donne, l'unica forse vera differenza che ci discosta dal genere maschile. Pensateci. Allora, ci accomuna tutte per i primi 50 anni della nostra vita, ed indovinate, c'è chi la chiama il barone rosso, chi il marchese, chi le cose vostre. E quindi dopo la parola lesbica è forse quella meno usata, ma qui le chiameremo con il loro vero nome, le mestruazioni. Allora, vi leggeremo un divertente e interessante articolo scritto da Jessica Dainese, pubblicato su Alias lo scorso febbraio. Intanto scriveteci un sms dicendoci cosa ne pensate delle mestruazioni al 340-8830 e se volete diteci poi al termine del programma, vi diremo il risultato di questo mini sondaggio che vogliamo lanciare stasera, che diciamo, se è vero, rispondete a queste due domande fondamentali: se è vero che il ciclo dopo un po' si sincronizza con quelle della vostra partner, ed è il primo, la prima domanda. La seconda domanda è se sospendete la vostra attività sessuale in durante quei giorni. Giorni poi al termine del programma, appunto durante il quarto d'ora di diretta, vi diremo anche io e Rosina, forse. Certo, certamente, no? È chiaro, giustamente, come no? Cominci tu però. Vai Rosina, leggi l'articolo. Allora, dunque, abbiamo detto, si tratta di un articolo apparso su Alias nel febbraio scorso e il titolo è emblematico, direi, La signora in rosso. E, what a drag to be on the rag, che scocciatura avere le mestruazioni, cantavano le Luna Chicks in Plug. E come dar loro torto, anche se per qualche donna il ciclo mestruale merita di essere celebrato come una icona di femminilità e potere, la realtà è che le mestruazioni sono soprattutto una faccenda fastidiosa, costosa e spesso dolorosa. È come se non bastasse, nonostante il ciclo sia un avvenimento naturale, da sempre circondato da un alone di silenzio, imbarazzo e pregiudizi, terreno fertile per la nascita di assurde leggende e divieti. Non si parla delle mestruazioni, se proprio si deve, appunto, come abbiamo già detto, non si chiamano con il loro nome, ma con i mille appellativi fantasiosi inventati apposta, le mie cose, il marchese, eccetera, eccetera. Anche nella società moderna l'argomento è ancora tabù. Ad esempio, nella pubblicità di assorbenti e tamponi, il sangue mestruale è di colore blu e non rosso. Del mestruo e delle implicazioni culturali, invece spesso ne parlano le fanzine Riot Girl o le punk femministe dai primi anni 90 ad oggi, accanto ad altri argomenti che riguardano il corpo femminile, come i disordini alimentari, lo stupro, l'aborto. Ai Lady Fest, inoltre, i banchetti che vendono alternative ai tamponi accanto ai dischi punk e fanzine non sono una vista rara. Durante alcuni di questi festival si svolgono addirittura dei workshop sulla radical menstruation, in cui si discute sulla industria degli assorbenti considerati dannosi per la salute e per l'ambiente, si impara a confezionare da sole la propria protezione femminile e a ridurre i crampi e i dolori del ciclo. Magari riuscirci sarebbe una cosa bellissima. Parecchie invece sono le band femminili che si sono ispirate al ciclo mestruale per il loro nome o per le loro canzoni, e tra l'altro scovando su internet, andando un po' in giro su internet, io e Annalisa siamo riusciti a tirar fuori delle canzoni che vi faremo sentire, che parlano appunto di questo argomento. Non italiane, naturalmente. Naturalmente non italiane, perché in Italia non si discute di queste cose, non si discute di sesso, non si discute di lesbiche, non si discute tanto meno di mestruazioni. Dunque, ci sono, abbiamo detto, moltissimi gruppi che si sono occupati di questo argomento. Alcune, ce n'era uno ad esempio fra i primi, che si chiamava The Period Pains, dolori mestruali, questo all'inizio degli anni 90, poi c'erano le Tampasm, che poteva essere una crasi fra Tampax e Orgasm, poi le Menstruation Systems, ancora le Heavens to Betsy, Cold Earth, insomma un elenco lunghissimo. E io però direi adesso ne possiamo far sentire una canzone, una delle Luna Chicks, una delle Luna proprio Chicks, PMS che sta per premenstrual syndrome, più o meno, ed è proprio il verso di apertura di questo articolo di Jessica Dainese, è stato appunto tratto da questa canzone. Che scocciatura avere le mestruazioni, sentiamola insieme. Feeling it? Trip that over, right? Trip that over, right? Trip that over, right? Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Voi mandateci sempre i messaggini. Ci hanno detto che per il sondaggio non vi ricordate il numero. Allora, il numero è cambiato solo per questa sera. È 340-341-8830. Il sondaggio che stiamo lanciando, e vi diremo il risultato, è: se è vero che il ciclo dopo un po' si sincronizza con quelle della vostra partner, cioè se è successo, e se sospendete la vostra attività in quei giorni. Stiamo parlando di un argomento che se ne parla sempre alla luce del sole: mestruazioni. Lì, sì, proprio loro, le sanguinose. Allora, quando si parla di Tampax e punk rock è impossibile non citare le L7 o L7, probabilmente passate alla storia anche per il lancio di un tampone usato al pubblico durante un festival rock inglese in cui venivano fischiate. Eleganti. Molto. Molto. Pare che fossero solite lanciare assorbenti anche ai componenti del loro team quando questi le insultavano. Tra le canzoni che affrontano l'argomento mestruazioni, una delle più toccanti è My Red Self, dalla compilation Kill Rock Stars, delle Riot Girls, Evans to Betsy, il gruppo di Corin Tucker. E, diciamo, tra le parole che citano nella canzone è: qual è il colore della vergogna? È rosso sangue, canta appunto Corinne, rifiutando di nascondersi e di trattare la materia con imbarazzo, per finire con: sono queste le mestruazioni, troppo strane perché tu possa capire, allora mi fai nascondere la verità a te, mi fai nascondere il mio sé rosso a te. Un pezzo molto privato, insieme molto politico. Il trillino è su qualcuno che c'ha le mestruazioni ed è disperata. Allora, e The Haggard, un duo hardcore femminista queer di Portland, Oregon, sono più politicizzate. Nel loro album di debutto, A Bike City Called Greasy, del 2000, c'è un pezzo dal titolo Tampons in cui le due invitano a stare in guardia da chi fa affari sul corpo delle donne. E dicono nella loro canzone: corsie e corsie di scatole graziose per renderci senza odore, senza peli, insapori, farci proprio come ci vogliono loro, ma i loro prodotti ci uccideranno. Affermano anche che i tamponi sono costosi e potenzialmente pericolosi, e consigliano come alternativa la spugna marina. Poi c'è Kevin Black Dome, sceglie invece l'approccio ironico e in Binaca, dall'album Bitches Without Breeches del 2003, in tono allegra: da quando mi sono venute le mestruazioni non devo più comprare mutandine rosse. Questo ci fa capire che c'è un flusso proprio fluente. Poverina, ci dispiace molto per lei. E invece la star dell'hip hop soul Mary J. Blige, in PMS, dall'album No More Drama del 2001, si lamenta invece dei disturbi fisici e emotivi che deve soffrire durante il periodo mestruale. Tra le parole che canta c'è: questa è la parte peggiore di tutto, la parte peggiore dell'essere una donna è PMS. Dammi una tregua perché non voglio essere aggressiva questa sera. E noi ce l'abbiamo, l'abbiamo scaricata, non lo dovremmo dire, no? Ah sì, non lo diciamo invece perché siamo contrari. Diciamo, ecco, ci è costata tanta fatica, ma alla fine abbiamo scaricato ed è anche molto carina. Quindi per voi Mary J. Blige in PMS. Ladies tonight, yeah. About the situation I'm pretty sure y'all would be able to relate to, trust me. What's that? Today I'm not feeling pretty. See, I'm feeling quite ugly. Having one of those days when I can't make up my mind. Don't even look at me. See, I don't wanna hear your problem. No. 'Cause I'm having some of my own. I know it's not your fault that I'm feeling down. I just wanna be left alone. Down and out in depression. About me, no, no, no, no. I don't need you crowding around me, no. I don't need your sympathy, no. I don't need it, no. Oh, I don't need it, don't need it, no. PMS. Abbiamo avuto un sacco di messaggini. Oh, sì, sì, sì, che brave! Ci fa piacere naturalmente leggerne uno in particolare, sì. Poi gli altri magari li pubblicheremo sul sito, ma questo lo vogliamo poi leggere. Poi leggiamo pure. Certo, mano, li leggiamo, magari il quarto della finale, certo, come no. Allora, ci scrivono Sherry e Michelle, sì, che sono due ragazze. Salutiamo. Hi girls! Hi girls! Questo sappiamo dire. Sappiamo solo questo, speriamo che riescano a capirci bene, perché e loro naturalmente sono americane, e ci scrivono una cosa molto molto bella. Ve la leggo. Oui ragazze, non so se sì, oui, W-E, non so che cosa significa, vabbè, comunque, oui ragazze, Un bacio a tutte. Nostro ciclo non si è mai sincronizzato, forse una volta l'anno. Le mestruazioni non sono un problema, sinceramente non ce lo siamo mai posto. E soltanto un attimo, perché è un messaggio multiplo. E dunque. Accidenti, non riesco a trovarlo. Ahimè, questi telefoni cellulari. così tecnologici. E vediamo un po', eccolo qua. Ah, eccolo qui. Perché non sono un problema? Perché fanno parte della nostra femminilità. Non le sentiamo come un impedimento al nostro rapporto. Puntata originale, speriamo di vedervi presto. La musica è ok, anche noi speriamo di vedervi presto, magari al Buon Pastore o chissà, magari sì, proprio qui in radio per fare una lunga chiacchierata. Assolutamente, sono due donne simpaticissime, veramente un bacio enorme. Kiss for you. Oh, what an English. Perfect. E allora finiamo di leggere l'articolo, poi leggiamo gli altri messaggi. Certamente. Vogliamo ridire il numero di telefono. 340. Rispondete al messaggio, mi raccomando, al nostro sondaggio è 340 341 8830 solo stasera. E stiamo lanciando questo sondaggio perché stiamo parlando di mestruazioni. E se è vero che il ciclo dopo un po' si sincronizza con quelle della partner e se sospendete la vostra attività in quei giorni. Leggiamo al finale dell'articolo simpaticissimo che abbiamo trovato. Ma certamente, vai, prosegui. Proseguo io. Ma sì, prosegui tu. Allora, la cantautrice soul e attrice Chris Hammer in Miss Moon da Street Fire del 1999 è altrettanto esplicita e recita: il mio sangue è arrivato oggi, sono gonfia e matura, non voglio che nessuno mi dica cosa è giusto. Lori Anderson in Beautiful Red Dress dall'album Strange Angels è più vaga, parla di alta marea e di un bel vestito rosso. Anche Cesaria Evora si è occupata dell'argomento in Sangue de Beirona, una delle sue canzoni più celebri. E infine le già citate Luna Chicks con le canzoni Plug e appunto PMS dall'album Pretty Ugly, Pretty Ugly del 1997. Noi abbiamo passato già le Luna Chicks, non ci resta che farvi ascoltare anche Cesaria Evora, e magari se avete dei brani che parlano di mestruazione tra quelle che abbiamo citato, ce li mandate. Oppure è un brano scritto da voi nelle notti di dolore. Io non so, quando c'è la mestruazione io sto malissimo. Quindi magari potrei decidere, infatti, di scrivere una canzone, però piuttosto come... che andare a giocare a pallavolo come ci vogliono far credere gli spot, no? Che continuamente sembra che uno aspetta quei giorni per andare a giocare a pallavolo, ci potremmo ascoltare della buona musica. E noi ringraziamo quante di voi stanno rinunciando all'evento dell'anno in Italia, sembra che tutto si mobilita per Sanremo e preferisce la nostra trasmissione, una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Io non posso fare a meno che citare e salutare, vorrei anche in altro modo, la nuvoletta che sta rinunciando al suo Sanremo per ascoltare due speaker alla radio. La nuvoletta ti manda un messaggio d'amore. No, vabbè, dopo. E però dice anche che Sanremo è una cacca. Verona, San Verona, San arriverò nelle sande le do. Salutiamo anche Tania che ci ha mandato un messaggino di complimenti, anche lei non risponde al nostro sondaggio e non ci dice se si Tania sincronizzano con quelle della sua partner. Tania è timida. È timida, doveva essere l'ospite speciale di stasera, poi ha saputo che si parla di mestruazioni. Se n'è andata. Si può cocciare la nafondi la tira, vuota colpa e chi fa se scolatera. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, nelle spalle le do. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, nelle spalle le do. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, nelle spalle le do. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, nelle sande le do. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, nelle sande le do. Santi Verona. Allora, eccoci qua. Abbiamo detto che non avremmo parlato di 8 marzo in maniera troppo pesante, però insomma concedetecelo, l'8 marzo veramente si avvicina e quindi qualche appuntamento ve lo dobbiamo necessariamente dare, ma sono tutte cose belle, divertenti e interessanti. E non possiamo naturalmente che cominciare con l'iniziativa del Centro Femminista Separatista, Coordinamento Lesbiche Romane e Collegamento Lesbiche Italiane insieme, per l'8 marzo, come tutti gli anni passati e tutti gli anni a venire, che ci regge la pompa, continueremo a fare queste serate straordinarie di Les Bollywood. In questa occasione naturalmente sarà una serata 8 marzo, lunedì 8 marzo appunto alle 20:30 presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales. Abbiamo un programma interessante, come sempre naturalmente, fatemi un po' incensare, e cominceremo alle 20:30, ci sarà la classica cena di autofinanziamento del Centro Femminista Separatista. Alle 22, anziché la consueta proiezione, il consueto film che generalmente mandiamo, ci sarà invece uno spettacolo teatrale per la prima volta a Roma che si intitola La Baton Gate. Il testo lo ha scritto Elena Rossi e lo spettacolo invece è interpretato da Angela Soldani e le musiche sono di Annette Gisrigl, scusate la pronuncia. L'ingresso sarà a pagamento perché naturalmente servirà per finanziare il CFS e anche ovviamente per riconoscere il lavoro di queste ragazze. Per rimborsare le spese. Va. E anche per rimborsare le spese, soprattutto quelle, per riconoscere insomma il lavoro di queste ragazze che vengono fino a Roma a divertirci, insomma, a mostrarci il loro lavoro. E dunque si tratta praticamente di un poema epico in ottave a rima baciata. Ed è una favola sui dilemmi della coppia lesbica, fedeltà, infedeltà, stabilità, instabilità, e più o meno la trama è questa. Circa 3500 anni fa la cavaliera Batonga era felicemente fidanzata con la bella Fatonza, ma un bel giorno arriva la guastafeste di turno nei panni della maga Catonza e dopo un duello all'ultimo fendente la maga rapisce Fatonza e la rinchiude in un sarcofago Batonga. Batonga finalmente risuscita per narrarci la sua istruttiva storia. Quindi venite in massa, partecipate, ci sono i posti limitati, non è vero, potete venire in quante volete, no, ma soprattutto perché cuciniamo ogni volta dei piatti soprattutto perché cuciniamo con dei il piatti cuore. Con il cuore ci saranno dei dolci buonissimi prodotti da Annalisa, diciamo da Napoli. Migliore, da Napoli, la migliore tradizione napoletana. Ci saranno tantissime cose buone da mangiare. Naturalmente vi ricordiamo ancora una volta, l'evento è aperto alle sole donne. Per le informazioni potete contattarci presso il Centro Femminista Separatista allo 06 6864 201, il mercoledì sera, oppure potete scrivere una mail all'indirizzo contatti@clrbp.it. E che altro possono fare per contattarci? Ci possono mandarci un messaggino 340 341 8830. Perfetto. Bene, Annalisa, ti lascio la parola. Sì, allora, abbiamo moltissime iniziative. Un'altra iniziativa importante, lunedì 8 marzo, presso la sede della libreria Feltrinelli di Galleria Colonna, alle ore 18:30, quindi ce la fate poi per venire da noi dopo, subito dopo, verrà presentato il libro Lei, conversazioni private con le donne che hanno accompagnato i monologhi della vagina in Italia. Scritto da Monica Capuani, con introduzione di Maria Serena Sapegno, Luca Sossella, editore, e appunto di quest'anno. E ci sono ancora sempre Mese 8 marzo, la Casa Internazionale delle Donne ha programmato quest'anno un Mese 8 marzo. Il calendario degli eventi che avranno luogo nella casa prevede dibattiti, convegni, spettacoli e mostre, a partire dall'incontro con il premio Nobel Shirin Ebadi, che c'è stato, e proseguiranno appunto per tutto il mese. Le iniziative di quest'anno mettono al centro i diritti di cittadinanza delle donne nel mondo e le nuove genealogie femminili nella globalizzazione, sui temi caldi della pace, dell'esistenza delle donne nei luoghi difficili, del controllo delle risorse, dell'attualità del femminismo come pratica di modificazione di sé e del mondo. E la Casa Internazionale delle Donne vuole offrire un luogo aperto di incontro, di riflessione, di proposte per determinare la nostra vita e un altro mondo possibile. Per queste altre informazioni potete collegarvi, andare sul loro sito, sul sito appunto della Casa Internazionale delle Donne, avete pure una sessione relativa al Centro Femminista Separatista. Vi do l'indirizzo, molto semplice, www.casainternazionaledellodonne.org. E dal 5 marzo e per tutto il mese di marzo parte del prezioso materiale di archivio sarà in mostra per dare visibilità e voce a 30 anni di distanza ai temi, ai conflitti, alle conquiste del femminismo attraverso foto, manifesti, libri, volantini, ciclostilati, riviste, libri, eccetera. Il filo conduttore sarà l'agenda degli appuntamenti di una militante del femminismo romano dell'epoca, Edda Billi, del movimento femminista romano di via Pompeo Magno, che salutiamo con affetto. Sì, esatto. E poi l'8 marzo c'è il quinto sciopero globale delle donne a Roma, davanti al Senato, nella corsia agonale, dalle ore 16 alle ore 18, quindi sempre in tempo poi per venire da noi al CFS subito dopo. Si terrà una manifestazione con striscioni, volantini e materiale informativo. Le rivendicazioni dello sciopero in Italia: reddito sicuro subito a tutte le madri, disoccupati e, disoccupate e studentesse. No alla legge sulla fecondazione assistita, recentemente approvata dal governo. Studi e approvazione della dichiarazione dei diritti fondamentali delle donne. Prendiamo fiato. Naturalmente, però vorrei sottolineare che è vero che è per le studentesse, le disoccupate, ma in genere questo sciopero lo hanno allargato anche ai diritti dei disoccupati e degli studenti, quindi si avanzano soldi. Si avanzano soldi, adesso ci riteniamo noi, tanto non ci daranno una lira mai comunque. Allora, ci sono anche altre iniziative, naturalmente, sì. Ci preme invece dirvene una in particolare. Proprio in occasione dell'8 marzo, l'assessorato alle pari opportunità ha deciso di rilanciare la parola d'ordine dell'impegno in favore dei diritti umani delle donne nel mondo con una installazione evento che si chiamerà Rome for Women. Nella stessa data in cui si terrà questa installazione, Amnesty International lancia la sua campagna dal titolo Mai più violenza sulle donne, una campagna mondiale che durerà 2 anni. Allora, il 5 marzo alle 11, in una conferenza stampa congiunta fra Comune e Amnesty International, verrà presentata questa installazione evento che sarà allestita sulla piazza del Campidoglio a partire dal 6 marzo fino all'8 marzo. E questa installazione ha una funzione simbolica e di impatto sull'opinione pubblica, ma è anche uno spazio aperto alla partecipazione dei cittadini e delle cittadine, naturalmente, soprattutto, in cui si potrà dare testimonianza attraverso l'affissione di una bandiera colorata che racconterà la storia di una donna, Si tratta di circa 150 diverse storie che vedono protagoniste donne di ogni parte del mondo, perseguitate, torturate, incarcerate ingiustamente, condannate a morte. Mm-hmm. Il 6 pomeriggio alle 17 sarà inaugurata. E, insomma, pensiamo di poter andare, vi invitiamo ad andare, sì, perché è una, sì, cosa molto, molto importante. Oh, e sempre lunedì marzo, 8 marzo alle ore 19.30 si inaugurerà nel suggestivo spazio del Godemus Life Quality Concept un altro evento imperdibile, che è la personale di una giovane interessante artista, Tiziana Guidi, dal titolo Abissi Solari. Potete andare sul suo sito, che è www.tizianaguidi.com. E opere vengono esposte piene di colore, di vita e movimento. La sua straordinaria capacità è quella di far nascere dalla materia semplice come carta igienica, gessetti, colori ed acqua, e soltanto con le mani, immagini di movimento vitali nelle quali l'occhio si perde, trasmettendo alla mente emozioni profonde. Ci sono anche altre cose che vi potrei leggere, però diciamo che, riassumendo, Godemus Life Quality Concept è in vicolo della Scala 11 a Roma ed è aperto tutti i giorni dalle 20 alle 2 di notte. Per informazioni potete telefonare allo 06 972 70 64 9349, sembra proprio lunghissimo sto numero, vabbè, vi do il cellulare, forse è meglio, 349 22 32 894, oppure potete andare sul sito, che è www.gaudemus.net. Noi ci prendiamo giusto un attimo dovremo mandare la sigla finale, però rimanete all'ascolto, siamo in diretta sempre io e Rosina, mi raccomando, poi vi daremo pure il risultato del nostro sondaggio. No, ci sono anche dei messaggini arrivati con risposte. Vedi, certo. Allora, mi raccomando, fatevi coraggio, non diciamo chi ci risponde, però facciamo un mini sondaggio sulle mestruazioni, cosa ne pensate, senza dire naturalmente chi ha risposto. Invece, se rimanete con noi, vi diremo io e Rosina come la pensiamo. Certo. E soprattutto vi diremo una barzelletta divertentissima sulle mestruazioni. Rosina, ce la fai? Non lo so, forse, vediamo. Ok. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me here. Dolcezza che vi muove, piano le carezze piove. Piove lacrime e veleno, che mio amore dove andremo? E le giura seno a seno, sotto un cielo agli altri osceno. Occhi dietro una finestra, che storia disonesta, come un'ombra sulla vita, la terra trema inorridita, ma è una storia come tante, un corpo uguale a un'altra amante, amarsi dentro ad un riflesso, toccarsi nello stesso sesso, maledetta l'apparenza. Come le mani che le scalderai, maledetta l'apparenza, dov'è la differenza? eccoci di nuovo in diretta. Noi abbiamo passato appunto questo brano bellissimo di Mariella Nava, che si chiama La differenza, molto esplicito appunto sull'amore tra due donne, e anche se lei è sempre un po' restia a farla, poi non so perché. Tu la conosci, gliel'hai chiesto? Sì, gliel'ho chiesto pure perché ha questa difficoltà, perché fa quelle sui gay, fa quelle sull'AIDS, fa tutto. Pensavo che avesse difficoltà esplicite nel fare l'amore, pensavo che tu le avessi chiesto. No, le avessi chiesto di fare l'amore con te. No, è carinissima lei, ma... Oh, dunque, io direi di leggere. Grazie questo. Per i trillini, grazie. Ragazze, siete carinissime. Stasera sono proprio carine. Un po' restie, sì, un po' restie a dirci. No, invece il sondaggio va avanti. Possiamo trarre pure delle conclusioni alla adesso, fine della trasmissione. Adesso vi leggo questo messaggino di Gio. Hola, sono Gio, io e Barbara ci siamo quasi. Lei dice che è scientifica la sincronia, naturalmente, tuttavia non è un problema. E poi ci danno questa perla di saggezza: il Festival di Sanremo naturalmente può provocare danni gravi al cervello, quindi vi consigliamo di rimanere in contatto con noi. In ascolto da una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Allora, continuiamo con i nostri appuntamenti. Sì. Il 9, il 10, l'11 e il 12 aprile, quindi andiamo un po'. Anzi, guarda, prima di questa notizia vi do un'altra notizia ancora. Sì. Che viene un po'. Che viene prima, sì. Prima. Il sabato 6 marzo il gruppo Fuoricampo continua le cene con la stessa formula, ma moltissime idee in più. Musica dal vivo, mostre di arte visiva, teatro. E il tutto per legare l'arte della cucina con le altre arti, quindi cibo, parole, musica e arte, sabato 6 marzo, con musica a cura della DJ Trippi. La musica sarà disco, revival pop, elettronica, commerciale, eccetera eccetera, a Bologna, in un piccolo localino molto carino. Vi ricordiamo che per la cena occorre la prenotazione, perché i posti sono limitati essendo il locale molto piccolo. E per la festa invece si entra dalle 24 soltanto se si è in lista, quindi prenotatevi sul sito www.fuoricampo.net oppure scrivete una mail a cene@fuoricampo.net e se volete telefonare potete farlo allo 051 34 99 69. E dunque, invece, per quanto riguarda l'appuntamento di aprile, abbiamo detto il 9, il 10, diciamo magari prima quello sui femminismi del 6-7. Annalisa continua disperatamente a darmi fogli su fogli, non capisco perché non si legge da sola. Io sono sempre proiettata al futuro, quindi ero già ad aprile, mentre invece lei giustamente mi tira le orecchie e mi dice che il 6 e il 7 marzo 2004, ancora presso la Casa Internazionale delle Donne, si terrà un seminario nazionale sul femminismo dal titolo Femminismi di ieri e di oggi, teorie e pratiche scusate, a confronto. E dunque, vediamo un po'. Il seminario nazionale sul femminismo riprende e continua l'approfondimento del precedente incontro sullo stesso tema avvenuto a Roma il 26 ottobre del 2002, sulle teorie e le pratiche del femminismo di fronte agli interrogativi del presente, che insomma è una cosa notevole. A sua volta nato per dare seguito agli incontri di Milano che si intitolavano L'eredità del femminismo per una lettura del presente presso l'Università delle Donne nel novembre 2000, aprile 2001, e quello di Verona che si chiamava Femminismo punto a capo, filo di Arianna. Dunque, storie e percorsi di donne dagli anni 60 agli anni 80 saranno raccolte nella collana Letture di archivio delle edizioni Fondazioni Badaracco Franco Angeli, la cui uscita è prevista per i primi di marzo, di un numero speciale della rivista Leggendaria dal titolo Stato dell'Arte, che tenta appunto una cartografia dei temi aperti sull'attuale rapporto tra donne di diverse generazioni con la definizione del sé femminista. Tra l'altro, le compagne che sono state in radio prima di noi hanno parlato proprio di Leggendaria. E vi do il... vi do il programma, eccolo qui, finalmente l'ho trovato. Allora, sabato 6 marzo 2004 ci saranno i lavori di vari gruppi: il gruppo Autocoscienza e Psicoanalisi, il gruppo Corpo e Politica, il gruppo Lavoro Vita, il gruppo Femminismi Transnazionali, il gruppo Memoria, Conservazione e Diffusione. E domenica 7 marzo ci sarà un lavoro di gruppo e infine l'assemblea finale. La partecipazione al seminario prevede naturalmente un'iscrizione da comunicarsi possibilmente entro il 1 marzo, quindi siamo già fuori, però possiamo sempre tentare. E il costo della partecipazione sarà di 5 euro, che possono essere versati all'inizio dei lavori della segreteria organizzativa gestita da Zorani Larston. Per avere informazioni potete contattare Zorani Larston al numero 0668 0619 3001, oppure potete contattare la segreteria del Consorzio Casa Internazionale delle Donne allo 06 6840 1721. Non ci danno indirizzo internet, quindi vabbè, sarà però comunque, se andate sul sito della casa, che è www.casainternazionaledelledonne.org, trovate tutte le altre notizie. Esattamente. Purtroppo il tempo è tiranno, però noi abbiamo promesso qualcosa e quindi parlavamo di mestruazioni. Io e Rossina facciamo sempre puntate un po' così, un po' sgallettate. Vabbè, allora dunque la storia è questa, tutte me la richiedono a grande... Prima la barzelletta e poi diciamo il risultato del sondaggio, che è aperto anche fino a martedì prossimo, potete scrivere sul nostro sito cosa ne pensate. Giustamente. Allora, ci sono due vampire lesbichine, molto carine, si incontrano, vanno in discoteca, insomma fanno amicizia, si frequentano un po', un bel giorno decidono, insomma, bella notte, perché si sa che le vampire si frequentano di notte, decidono di andare a casa di una, insomma sono lì che si organizzano per avere una seratina come si deve, e insomma fanno di tutto, baci, abbracci, carezze, il mitico 69. Quando sorge il sole, finalmente le due si guardano negli occhi, si staccano, devono andarsene, una torna nella sua bara, una nell'altra, si guardano negli occhi e si fanno: ciao cara, ci vediamo fra 28 giorni. E questa è veramente disgustosa. E questa tra le barzellette candidate a vincere, poi voi sapete che noi avevamo lanciato questo sondaggio perché non esistono barzellette sulle lesbiche, questa è tra le più carine che ci sono pervenute, ringraziamo Lorella per quello. E se ne avete altre potete sempre scriverci al contatti@clrbp.it. E che dirvi, allora il sondaggio sembra in linea di massima, non diciamo quante hanno risposto, un po' pochine, avete remore anche a dirci questo, però sì. Sembra che non si sincronizzino, Rosina, non si sincronizzino, però quasi, che le lesbiche quasi continuano tranquillamente a fare l'amore e ci fa piacere. Bene, ci fa piacerissimo, molto di più. Noi ci vediamo martedì prossimo. Vi dobbiamo purtroppo salutare, però sapete che c'è Sanremo e quindi io ho portato una canzone che... Papaveri e papere. No, una canzone a tema, cantata da Rossana, grazie per i trillini, tesorine, cantata da Rossana Casale, Grazia Di Michele, che si guardavano negli occhi e cantavano questi amori diversi, poi intervistate hanno detto che la canzone non era lesbica. Perché sono due lesbiche represse, comunque noi non lo siamo e la mandiamo lo stesso. Sì, dedichiamo a tutte voi, a quelle che amano, e quelle che sono innamorate, a quelle che hanno le mestruazioni soprattutto adesso, in questi giorni un po' più nervose, distendetevi su questi amori diversi, noi vi abbracciamo, vi aspettiamo lunedì 8 marzo, abbiamo bisogno della vostra presenza, del vostro calore a queste nostre iniziative. Portatevi Tampax. Portatevi Tampax, ce li lanceremo addosso, una grande festa. E non perdetevi questo spettacolo teatrale che è molto carino, e vi salutiamo, io, Annalisa. E Rosina. E Rosina, alla prossima ragazze. Ciao. Ho sbagliato naturalmente. indicarci la strada in quella buia tempesta di desiderio e di attesa, a farci brillare gli occhi di quella luce così vera e a sussurrare parole al fuoco dell'intesa, al fuoco dell'intesa. Sono gli amori diversi, quelli che restano dentro e che vorresti cullare, sentirli cantare e fermarli nel tempo. Sono gli amori più intensi, quelli che restano dentro e non riesci a scordare che fanno più male. Gli amori come te. Molto allegra. Ok, ciao ciao. Martedì Femminista Autogestito presenta. Liberamente. Liberamente. Liberamente. Liberamente. Martedì Femminista Autogestito presenta Liberamente. Di a da in con super tra fra donne. Di a da in con super tra fra donne.